GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Migranti e rotta balcanica, più controlli ai confini disposti dal tavolo della prefettura a Trieste e scontro sulle riammissioni in Slovenia. Omicidio Tulissi, accolto dalla Cassazione nel ricorso sulla soluzione in appello di Paolo Caligaris. Debutta a Sacile il primo ambulatorio sperimentale di assistenza primaria, la risposta alla carenza di medici di famiglia. Caro Energia, le nuove richieste dei comuni, la TAL a Trieste investe 30 milioni nelle infrastrutture SIOT. Questione di etichetta, a Fagagna fattura 21 milioni, un'azienda che veste le bottiglie e le confezioni alimentari. Prima giornata di sci, impianti aperti a Sella Nevea, si sale sullo Zoncolan, ma per il fondo. Eventi natalizi e solidarietà, tutti gli appuntamenti dell'Immacolata. Basket, Cividale batte Udine nel derby di A2, vittoria Ducale per un solo punto, 67-66. Giovedì 8 dicembre, buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. Subito uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo da poco nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature registrate questa mattina parlano di 7 gradi a Trieste, a Gorizia 6 gradi e 5 decimi, a Udine 5 e 5 decimi, 2 gradi a Pordenone. Nell'area montana a Tolmezzo meno 1, a Tarvisio meno 1 e 5 decimi, a Sappada meno 7 e 5 decimi, a Biancavallo meno 5, a Forni di Sopra 1,5 gradi sotto zero, sullo Zoncolan meno 4, sull'Ussari meno 5 e 5 decimi. Tornando sulla costa, Lignano è a grado 8. Le previsioni di oggi, cielo in prevalenza poco nuvoloso a ovest, variabile a est. Nelle ore notturne e al mattino possibili nubi basse nei fondovalle delle aree montane più interne. Nell'area di Trieste al mattino soffierà bora moderata e in giornata non è esclusa qualche debole pioggia. In tarda serata peggioramento del tempo con aumento della nuvolosità. Apriamo con la cronaca e con un investimento mortale avvenuto questa mattina, poco dopo le 6, presso Meretto di Tomba, lungo la provinciale 60. Un giovane pakistano che era in sella a una bicicletta è stato travolto e ucciso da un furgone che trasportava biancheria. È stato sbalzato per una decina di metri ed è morto sul colpo. Rafforzare la vigilanza ai confini e ripristinare le riammissioni. Queste le indicazioni del Ministero dell'Interno per contenere il flusso di migranti lungo la rotta balcanica. Il meccanismo delle riammissioni, che per il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga deve partire il prima possibile, era già compreso negli accordi con Slovenia e Austria ed era stato sospeso di fatto. I controlli di polizia nella fascia confinare tra Italia e Slovenia saranno rafforzati. Lo ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che si è riunito nel pomeriggio a Trieste a pochi giorni dall'invio della direttiva con cui il capo di gabinetto del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiede ai prefetti di aumentare la vigilanza, anche per assicurare l'attuazione degli accordi con Slovenia e Austria del 96 e del 97 a proposito di riammissioni, che erano state sospese di fatto. Il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè. Abbiamo concordato una rivisitazione dell'intero dispositivo di vigilanza e controllo sulla fascia confinaria, aumentando i servizi di vigilanza. Il rilancio delle riammissioni avviene però con qualche condizione. Il Ministero dell'Interno ha affermato in un'interrogazione parlamentare dello scorso anno che non possono essere eseguite su stranieri vulnerabili come minori, malati o su persone già fotosegnalate in altri stati europei. In base all'accordo con Lubiana va poi provata l'effettiva provenienza dalla Slovenia e che abbiano varcato il confine nelle ultime 24 ore oppure che si trovino entro 10 chilometri dalla frontiera. Altro ostacolo è la necessaria collaborazione delle autorità slovene, che quelle italiane hanno infatti incontrato in mattinata. Secondo l'ICS, l'associazione che difende il diritto d'asilo, le riammissioni sono sempre legali quando i migranti dichiarano la volontà di chiedere protezione internazionale. Il presidente Gianfranco Schiavone annuncia nuove iniziative nei tribunali. I sindacati di polizia temono che gli agenti possano rispondere personalmente in caso di accuse di tipo penale. La politica intanto preme. Il presidente Massimiliano Fedriga si augura che le riammissioni partano il prima possibile. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Una nuova svolta nella vicenda giudiziaria sull'omicidio di Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola sulla soglia di casa Manzano nel novembre 2008. Tornerà davanti alla Corte d'Appello il suo compagno Paolo Caligaris, che in secondo grado era stato assolto dopo la condanna in primo grado a 16 anni di reclusione. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso della Procura di Udine, che aveva chiesto l'annullamento della sentenza d'appello, così come i familiari della vittima. Sentenza emessa nel settembre dello scorso anno, dopo che la Corte aveva ritenuto infondato l'impianto accusatorio nei confronti di Caligaris. Le motivazioni della Cassazione saranno depositate nei prossimi giorni. Parliamo di sanità. A Sacile sta per aprire il primo ambulatorio sperimentale di assistenza primaria. È la risposta alla carenza di medici di famiglia e potrebbe estendersi ad altre aree. Sentiamo come funzionerà. I 1000 pazienti rimasti senza medico di famiglia a Sacile da lunedì non avranno un nuovo medico, ma potranno rivolgersi all'ambulatorio sperimentale di assistenza primaria. Un ambulatorio all'interno dell'ospedale cittadino coperto da medici a ore. Sarà aperto 3 ore al giorno con la turnazione di 3 dottori, grazie a un accordo siglato tra azienda sanitaria e sindacati. Il direttore generale dell'ASFO, Giuseppe Tonutti. Di solito sono medici che stanno attualmente frequentando il corso per medici di medicina generale, quindi un domani faranno quel lavoro lì. Possono essere anche medici che non stanno frequentando il corso, medici laureati, magari in attesa di entrare in specialità. Sono praticamente anche gli stessi medici che poi coprono le guardie mediche. Fernando Agrusti, referente regionale del sindacato dei medici di famiglia FIMGE. Chiaramente questi daranno un servizio, però esclusivamente, bisogna precisare bene questa cosa, agli assistiti che non hanno un medico. Quindi coloro i quali hanno un medico si riferiranno al loro medico. Cioè non è che svolgono un ruolo di guardia medica diurna per tutti, ma è un servizio che viene dedicato esclusivamente agli assistiti privi di un medico di famiglia. Una risposta transitoria alla grave carenza di medici che potrebbe replicarsi in altre aree critiche del Friuli occidentale. Nel 2023 andranno infatti in pensione altri 10 medici di famiglia. Ancora Tonutti. Serve a superare una transitorietà. Noi quando troveremo il medico per Sacile che verrà definitivo, questo ambulatorio chiuderà perché questi assistiti verranno assegnati al medico che arriverà. Però noi sappiamo già che ad esempio quest'anno ad Aviano avremo uscita di 2, forse addirittura 3 medici contemporaneamente, quindi in qualche modo dovremo tappare una falla. Siamo a Zano al limite, anche San Vito forse abbiamo tappato, però insomma è sempre sul chi va là, basta che vada via uno, ne rischiamo di crollare. E quindi potrebbe essere replicata in altre situazioni all'occorrenza. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Secondo l'ultimo bollettino regionale sono stati poco più di 1000 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, in calo di 100 rispetto a una settimana fa. Il tasso di positività rispetto ai tamponi resta tuttavia superiore al 18%. 5 le persone ricoverate in terapia intensiva, quasi 300 quelle negli altri reparti. Ci sono stati 6 decessi. Il caro energia, a cui si devono gli ultimi emendamenti alla finanziaria, è la principale fonte di preoccupazione di chi amministra piccoli e grandi comuni e chiede più risorse. È avvenuto anche nell'ultima riunione del Comitato delle Autonomie Locali, il servizio. I rincari energetici restano il problema più grosso per gli enti locali, alle prese con la chiusura dei bilanci di previsione entro fine anno, è emerso dalle voci di preoccupazione per la tenuta dei conti espresse dai sindaci al Consiglio delle Autonomie Locali, cui hanno partecipato anche gli assessori alle finanze Zilli e alle autonomie locali Roberti, a rappresentare la presa di coscienza dell'emergenza del momento da parte delle istituzioni e ad assicurare che nessuno sarà lasciato solo. A confermarlo i segnali di attenzione, come gli ultimi emendamenti alla finanziaria 2023, approvati dalla Giunta regionale, che destinano oltre 13 milioni a vari settori, tra i quali case di riposo, strutture per disabili e agricoltura, per fronteggiare gli aumenti. Trovare soluzioni strutturali al problema, oltre che aumentare le risorse a sostegno degli enti locali, tra le richieste rilanciate dai sindaci al CAL, con la sua presidente Papa, essa che ha proposto l'attivazione di un fondo straordinario per i piccoli comuni, ipotesi che l'assessore Roberti considera prematura a fronte dei 10 milioni già stanziati in assestamento di bilancio. bilancio a valere sul 2023 e in attesa di sapere quanto arriverà ancora dalla finanziaria nazionale, oltre i 350 milioni già annunciati sempre per l'anno prossimo. Ci sarà tutto il tempo di inserire ulteriori risorse se ce ne sarà bisogno, ha aggiunto Roberti, che si è detto disponibile anche a un confronto con ANCI sulla necessità di garantire adeguato sostegno alle comunità del Friuli orientale e Riviera Friulana, richiamata dal presidente dell'Associazione dei Comuni Favotte e dai sindaci capofila dei due nuovi enti. Dalla presidente del CALI infine la richiesta di un impegno politico per sensibilizzare il governo perché conceda agli enti locali la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione in deroga per poter pagare le spese correnti delle bollette anche per il 2023, come già avvenuto quest'anno. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Investimenti per oltre 100 milioni di euro entro il 2024 sono stati annunciati a Trieste dal gruppo TAL. Il general manager Alessio Lilli ha specificato che circa 58 milioni del budget complessivo saranno dedicati alla parte italiana dell'oleodotto transalpino gestito dalla SIOT e di questi oltre il 50%, dunque una trentina di milioni, saranno destinati alle infrastrutture presenti a Trieste tra Terminal Marino e Parco Serbatoi. Si tratta, detto Lilli, del più consistente investimento sull'infrastruttura programmato dalla SIOT dopo la realizzazione della stessa tratta italiana dell'oleodotto. Il settore delle etichette di qualità per bottiglie di vino resiste alla crisi. Lo dimostra un'azienda friulana di successo con 100 dipendenti, 21 milioni di fatturato e progetti di espansione. Tra crisi energetica e prezzo della carta in aumento, l'azienda coglie i cambiamenti nelle abitudini degli italiani. Tanto è difficile il momento del vetro, quanto è florido quello del suo contenuto, il vino. Allo stesso modo soffre il settore energivoro della carta, non sembra conoscere crisi il mondo dell'etichetta di qualità. Vere e proprie opere d'arte su bottiglia, per il centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon o anche solo per omaggiare uno dei simboli del Friuli Venezia Giulia, il tagliamento. Viene da Fagagna, una delle principali realtà del mondo della stampa di etichette adesive per il vino e l'alimentare. La Tonutti Tecniche Grafiche, 100 dipendenti per un fatturato di 21 milioni di euro, che si espande diventando ora azionista di minoranza di un gruppo francese con un giro d'affari da 120 milioni di euro. Un'opportunità in un momento in cui l'export non sta calando, ci dice l'amministratore delegato Maria Teresa Tonutti, che permetterà di cooperare su acquisti e materie prime. Con Allianz Etichette riusciremo a creare sinergie per il futuro, per la crescita, la spinta su prodotti anche di multinazionali, e quindi questa è un'opportunità molto importante per l'azienda e per il gruppo in generale. Dopo una fase in cui gli ordini per le cartiere c'erano, ma era antieconomico produrre, ci dice la nipote del fondatore Pietro Mario, stiamo ora assistendo ad un altro fenomeno. La percezione della carenza di materia prima ha portato le aziende a fare scorte. I magazzini sono pieni e la domanda nella filiera della carta vive una fase di blocco. Dal suo osservatorio nota come il consumatore faccia più attenzione al supermercato, ma cerchi ancora di concedersi il bicchiere di vino in compagnia. C'è un calo della grande distribuzione, invece una crescita di quelle che sono le vendite, crescita o stabilizzazione di quelle che sono le vendite nel settore bar, ristorazione e catering. Fagagna, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prima edizione, prima giornata di sci in Friuli Venezia Giulia, anche se limitatamente a Sella Nevea, dove funzioneranno la telecabina del Canin, la seggiovia Gilberti e la funivia del Prevala. A Tarvisio e a Piancavallo saranno aperti rispettivamente la telecabina dell'Ussari e la seggiovia Tremol 1, ma con accesso consentito solo ai pedoni. A Ravascletto Zoncolan sarà invece aperta la funivia di Ravascletto, che consentirà agli appassionati dello sci di fondo di testare per la prima volta il nuovo anello da 2,5 km in quota. Si potrà salire pagando il biglietto di andata e ritorno dell'impianto. Domenica pomeriggio Promoturismo FVG deciderà se ampliare l'apertura ad altri poli la prossima settimana e lo si deciderà naturalmente in base all'andamento del meteo. Da ricordare che da oggi a domenica a Piancavallo saranno aperti il palaghiaccio e la pista da bob su rotaia, e sarà così anche nel fine settimana successivo. Dalla vigilia di Natale all'8 gennaio saranno aperti tutti i giorni. La pagina della cultura. Non ci sono più muri nella mia anima, soltanto i segni di una vita vissuta scolpiti nell'arte. È la frase con la quale Giorgio Celiberti saluta Gradisca, che da oggi ospita la sua nuova personale, che si intitola appunto Muri e che raccoglie alcuni affreschi, anche di grandi dimensioni, realizzati negli anni 90 e recenti opere su tela. Muri è allestita alla Galleria La Fortezza e sarà inaugurata alle 18 alla presenza del maestro friulano. Serata di prime teatrali a Trieste. Rossetti debutta La Tempesta per la regia di Alessandro Serra. Dopo il premiatissimo Macbeth, un altro capolavoro shakespeariano per uno dei massimi talenti del nostro teatro. Serra, come ci ha abituati, firma non solo la direzione dello spettacolo, ma anche scene, luci, suoni, costumi. Nella distribuzione dei ruoli, Marco Sgrosso è Prospero, Chiara Michelini è Ariel e Andrea Castellano è Nostromo Spirito. La Tempesta sarà in scena al Politeama fino a domenica. E al Bobbio si alza il sipario su A che servono questi quattrini? Commedia di Armando Curcio, diretta da Andrea Renzi. Nel cast ci sono Nello Mascia, Valerio Santoro e Loredana Giordano. Portata per la prima volta sul palcoscenico nel 1940 dalla compagnia dei De Filippo, mette a confronto due famiglie dalle opposte possibilità economiche, raccontandoci che nulla come la ricchezza ha un valore relativo. A che servono questi quattrini sarà in scena per la stagione della Contrada fino a domenica. Altri spettacoli di oggi a Trieste, al Teatro Miela alle 17, il Festival Spaesati propone Noi saremo felici ma chissà quando, tratto dal Diario da Belgrado di Biljana Srbljanović con Ksenija Martinović e la regia di Paolo Bignamini. Il diario racconta i giorni dei bombardamenti americani sulla Serbia tra marzo e giugno del 1999. Pasolini on the road va in scena al Teatro Pasolini di Cervignano alle 20:30. Marco Punti e Alessandro Mizzi interpretano il diario del viaggio che Pasolini fece nell'estate del 1959, compiendo il periplo dell'Italia al volante di una Fiat 1100. A Rosazio in Abbazia un pomeriggio dedicato a Bach e Handel con l'orchestra barocca L'Archicembalo. Protagonista dalle 16 del concerto è Mi sovvien l'Eterno. Fittissimo il cartellone di Nativitas, la rassegna organizzata dall'Unione delle Società Corali, che solo oggi propone ben 7 appuntamenti. Citiamo per esempio a Maniago alle 18:30 in Duomo la messa concerto con la Corale Magnaghese, a Ruda il concerto della Corale Monteverdi alle 18 nella Chiesa di Santo Stefano. Il calendario completo è reperibile sul sito web dell'USCI. Sono le 8 e quasi 48 minuti, apriamo la pagina dello sport. Basket. È stato vinto dalla Gesteco il derby di A2 contro l'Old Wild West, partita palpitante sul campo di Cividale con i padroni di casa che la spuntano 67-66 dopo una gara bella e combattuta. Il servizio. È Cividale a sorridere alla fine del primo storico derby friulano in Serie A2, vinto di un punto 67-66 contro una Udine che dimostra ancora una volta di essere più una somma di individualità che una squadra ben amalgamata. L'atmosfera bollente di un Pala Gesteco tutto esaurito, 2800 gli spettatori a gremire le tribune, spinge Cividale che inizia con un parziale di 10-2. L'Apu reagisce e riesce a sorpassare i Ducali con una tripla di Mussini, ma Muha e Rota riportano avanti i Ducali che chiudono il primo parziale sul 23-16. Il secondo periodo inizia male per Cividale che non segna per 5 minuti. Udine non brilla ma fa abbastanza per arrivare a più 5. Sul 23-28 per gli ospiti un controbreak della Gesteco rimette la gara in discussione e dopo un nuovo allungo dei padroni di casa Sherrill sulla sirena segna la tripla del pari 36-36 all'intervallo lungo. Proprio Sherrill prende per mano Udine nel terzo quarto, portando l'Apu fino al massimo vantaggio sul più 7, 51-44. Cividale però non molla, con un gioco corale e una tripla di Rota rimane attaccata al match, proprio mentre Udine sembrava sul punto di scappar via. L'Old Wild West chiude in testa il parziale con una tripla di Capitano Antonutti, 54-49. Si riparte e la Gesteco vede l'impresa, trascinata da Muha che segna 3 canestri in successione. Cividale passa in testa e continua a condurre per tutto il resto del periodo. A dare la dimensione della confusione di Udine è il quinto fallo di Brisco, uno sfondamento in un attacco 1 contro 5. Clark da 3 issa i ducali sul 66-60 e per Cividale sembra fatta, ma Lapu ha un sussulto, parziale di 6-0 e parità a 40 secondi dalla fine. Clark, sempre da 3, stavolta sbaglia e l'1 su 2 di Miani dalla lunetta sancisce il punteggio finale. L'ultimo possesso, con 26 secondi da giocare, è di Udine, che ha in mano il match point, ma Sherrill sbaglia tutto e perde malamente il pallone. Vince con merito Cividale, che sale al 5° posto con 14 punti e domenica giocherà a San Severo. Udine, alla prima sconfitta esterna, resta a quota 16, seconda in coabitazione con Cento e Forlì, avversaria del prossimo turno al Carnera. Cividale, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Largo successo casalingo per la Pallanuoto Trieste nell'ottava giornata del campionato di Serie A1 maschile. Alla Piscina Bianchi, la squadra di Bettini ha superato il Bogliasco per 20-6 al termine di un match praticamente dominato. Gli alabardati agguantano in classifica a quota 18 punti Ortigia Siracusa e RN Savona, che assieme al Telimar Palermo inseguono la N Brescia con 21 punti e la capolista Prorecco da sola in vetta con 24 punti. Pallavolo in A2 maschile, la Tinet Prata ha vinto ancora 3-1 sul campo di Motta di Livenza. In classifica i pordenonesi raggiungono momentaneamente Cuneo e Grottazzolina, che giocheranno oggi. Biathlon, Coppa del Mondo Femminile, la carabiniera sappadina Lisa Vittozzi torna a difendere la sua posizione di leader della classifica generale nella gara sprint in programma oggi a Hochfilzen in Austria. La prova sui 7,5 km comincerà alle 14:30. Domani la sprint maschile, che aprirà le gare maschili di Coppa e vedrà il debutto del 23enne Daniele Fauner, anche egli sappadino e figlio di Silvio, fondista campione olimpico. Calcio, 4 amichevoli di spessore per l'Udinese nel periodo che ci separa da qui al 4 gennaio, data in cui riprenderà il massimo campionato. Sabato il primo impegno contro il West Ham. Oggi intanto la partita celebrativa sul campo di Vado Ligure, a 100 anni dalla finale di Coppa Italia del 1922. Si gioca nell'inconsueto orario delle 11 e a disputare il match per i bianconeri sarà la formazione primavera. È stato illustrato il programma di IOF, l'Olimpiadi per giovani atleti, prevista per il prossimo gennaio. A questa edizione, la 16ª, sono attesi più di 1.400 sportivi che gareggeranno sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Un'occasione per dare visibilità alla regione. Una piccola Olimpiade per giovani atleti fino a 18 anni. IOF comincia a svelarsi a 45 giorni dalla cerimonia inaugurale che si terrà a Trieste. Dal 21 al 28 gennaio la 16ª edizione del Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea farà vivere a circa 1.400 atleti 8 giorni di gare nelle montagne del Friuli Venezia Giulia. Maurizio Dunhofer, presidente IOF 2023 Friuli Venezia Giulia. Fare gli eventi di questa portata ci fa conoscere in tutta Europa come questo evento, perché lì abbiamo e abbiamo in quel periodo tutti i comitati olimpici, 47 comitati olimpici su 50 europei, e quindi abbiamo un movimento importante dietro, una conoscenza, e ci facciamo conoscere veramente tutta Europa. Un convegno ha raccolto a Udine quasi 300 studenti dei licei sportivi della regione per promuovere i valori olimpici e un'esperienza da vivere come quella di volontario all'evento. 14 gli sport invernali coinvolti, distribuiti in 12 sedi di gara: Forni Avoltri, Sappada, Forni di Sopra, Zoncolan, Clout, Piancavallo, Tarvisio, Pontebba, Stellanevea, Udine, ma anche Spittal in Austria e Planica in Slovenia. Un evento nel segno della sostenibilità, a cominciare dagli impianti. Giorgio Kaidish, direttore generale IOF 2023 Friuli Venezia Giulia. La scelta che è stata fatta è stata quella di non avere degli impatti estremi su quelli che sono gli impianti già esistenti, quindi è stato solo messo a norma, omologato e diciamo aggiustato, ripristinato quelli che sono gli impianti già esistenti. Questo è tutto in un'ottica di sostenibilità. Udine, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, come ogni anno, torna in oltre 4.000 piazze italiane per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi per la ricerca, vendendo, in cambio di un'offerta, le ormai famose stele di Natale. Ai nostri microfoni ha parlato Giuseppe Gioffre, presidente della sezione AIL di Udine, per spiegarci cosa compra una persona quando compra una stela di Natale AIL. Non compra compra solamente una pianta, ma dà la possibilità con questa offerta di contribuire a finanziare la ricerca sulle leucemie, linfomi e mieloma e le altre malattie del sangue, di organizzare il servizio di cure domiciliari che noi facciamo a livello sia nazionale che anche a livello locale, come per esempio al Pordenone, sostenere servizi socioassistenziali, servizi di supporto psicologico, dare un contributo per le case alloggio AIL, che per esempio sono qui a Udine, che sono case date gratuitamente ai pazienti non residenti e ai loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura, e ultimamente anche a persone, pazienti ucraini, e sostiene in generale tutte le necessità del paziente ematologico e dei loro familiari. Quali risultati avete ottenuto finora? Malgrado un aumento delle diagnosi di tumore del sangue in Italia ogni anno ci sono circa 33.000 diagnosi, il Friuli Venezia Giulia si differenzia per essere all'avanguardia nell'ambito dei centri ematologici. Per esempio ultimamente a Udine sono state già realizzate delle infusioni sulle cartiche, una terapia molto innovativa, e questo ha consentito anche a Trieste per esempio di ospitare pazienti ucraini. In Friuli non abbiamo solamente come offerta la stella di Natale, a Trieste, a Udine, a Gorizia abbiamo anche delle palline di Natale, mentre a Pordenone hanno stelle e presepi di cioccolato, per cui c'è la possibilità anche di acquistare un qualcosa di diverso che possa essere più gradevole anche a tutte le persone. Inoltre da quest'anno abbiamo iniziato una sinergia tra le sezioni AIL della regione Friuli Venezia Giulia, per cui partecipiamo a bandi regionali assieme, pensiamo di fare una pubblicazione che possa essere utile a tutti, proprio per specificare ancora di più i risultati raggiunti e quali sono gli obiettivi che abbiamo. Anche Emergency sarà in piazza con i suoi volontari con il panettone fatto per bene, un modo per contribuire alle attività umanitarie dell'organizzazione. Il panettone, da circa un chilo, segue la tradizionale ricetta milanese con l'aggiunta di scorze candite di arance e di cedro e costa 20 euro. Soldi che saranno impiegati per sostenere i progetti di Emergency. L'iniziativa comincia oggi in piazza della Borsa, mentre sabato 10 e domenica 11 si trasferirà in via San Nicolò. A favore della Croce Rossa Italiana il 41esimo gala di danza che il Comitato di Udine ha organizzato per questa sera al Teatro Nuovo, eccezionale come sempre il cast della serata che vedrà impegnati artisti del Balletto Nazionale di Vienna, della Scala, dell'English National Ballet, del Balletto del Sud e anche da Stoccarda e da Berlino. La direzione artistica è di Elisabetta Ceron, la partnership di ADEB, Associazione Danza e Balletto. L'inizio dello spettacolo alle 20.45, adesso la rassegna stampa. Case in affitto, missione impossibile, è il titolo di apertura del Gazzettino, edizione di Udine. Trovare abitazioni in Friuli è un'impresa e i proprietari ammettono pochi immobili sono di qualità. Sullo stesso tema apre l'edizione pordenonese del Gazzettino, mentre nell'edizione di Udine fotonotizia per il basket con la Gesteco che addirittura si scrive tritura l'Old Wild West, mentre nel calcio Sottile punta su success per, si scrive, successo per, si scrive, per trasformarlo in bomber. Sul fronte sicurezza, pugno duro della questura, con una quarantina di provvedimenti negli ultimi mesi, colpiti stalker e responsabili di atti di violenza e messi d'aspo anche nei confronti dei tifosi dopo la rissa con gli ultra dell'Atalanta. Il Gazzettino di Pordenone torna invece sul tema del grattacielo di Via Molinari con una vignetta di ispirazione scacchistica. Per la cronaca, a Casarsa continuano i furti della cosiddetta banda delle marmitte, con tre furti solo lunedì. Il Piccolo dedica l'apertura ai nuovi collegamenti aeroportuali, da Milano ad Amsterdam i nuovi voli di Ronchi, rotte in arrivo grazie ai 15 milioni stanziati per la continuità territoriale. Poi la grande fotonotizia che è per l'arrivo del tallero con l'effigie di Maria Teresa a Ponte Rosso, pesa 17 tonnellate, al via i lavori per la posa. Sull'edizione di Gorizia in primo piano la crisi di personale negli uffici giudiziari, fallito il negoziato dal prefetto, i sindacati hanno confermato lo stato di agitazione. Il Messaggero Veneto nelle sue edizioni di Udine e Pordenone apre col titolo POS o contanti e i 60 comuni senza sportello. L'approfondimento nelle prime pagine è tutto sulla carenza di sportelli bancari e bancomat nelle zone più isolate della regione, tanto che sono 60 appunto i paesi che ne sono del tutto privi. Nell'edizione di Udine la notizia dell'annullamento della soluzione di Paolo Calligaris da parte della Cassazione. Ora è tutto da rifare. La fotonotizia è per il restauro della Torre Torre di Santa Maria, recuperata da Confindustria per creare la vetrina dell'ingegno, uno spazio espositivo per raccontare le imprese friulane. Continuano le ricerche dell'autopirata che ha investito la donna davanti all'ospedale di Udine l'11 novembre scorso, mentre Cividale festeggia nel basket, come abbiamo già visto col Gazzettino, la vittoria contro l'APU nel derby tutto friulano di ieri. Nell'edizione di Pordenone fotonotizia dedicata all'ASAP di Sacile, di cui abbiamo parlato nel nostro servizio, l'ambulatorio per chi non ha il medico di base, mentre nelle pagine interne spazio alle polemiche interne comune. C'è l'interrogazione del PD in merito all'iniziativa digitale Vinci con lo shopping, che sembra abbandonata a se stessa. L'ultimo post è di maggio e il botta e risposta sui 250.000 euro di spese per il Natale. Infine, auguri ad Angelo Luminoso, che compie oggi 100 anni. Leggo, parlo con le persone, ho ancora una vita sociale abbastanza piena, spiega. È tutto, ci risentiamo alle 12.30, linea GR1 delle 9. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.